approfondimento a cura della Cassa di Solidarietà La Lima, svolto presso l'Università La Sapienza di Roma in data 22 maggio 2024, la DNAA, Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, primo di due incontri, l'antimafia. Grazie per essere qui. Abbiamo spostato volentieri l'incontro qui all'accampata perché ovviamente sosteniamo assolutamente questa occupazione e siamo felicissimi che l'università abbia ripreso fiato, diciamo. E noi siamo la Cassa di Solidarietà della Lima. Spiegherò brevemente che cosa è. Qui sulla distro della Lima ci sono dei volantini appunto di presentazione della cassa. Mi scuso per la voce e per i colpi di tosse che probabilmente arriveranno, ma stiamo messi così. Allora, la Cassa di Solidarietà alla Lima è nata da un insieme di compagne e compagni che sono impegnati in differenti lotte e si sono trovate proprio anche personalmente, a causa delle lotte, ad avere a che fare con la repressione. E ci siamo poste sempre una serie di domande su come funziona, su come cercare di avere, diciamo, una sorta di preparazione, una sorta di autodifesa legale, in modo tale che non ci fidiamo solo ed esclusivamente degli avvocati, che per quanto vicini, avvocati di fiducia, però hanno uno sguardo tecnico sulle cose. E invece molto spesso è anche importante avere una visione, diciamo, più politica di quella che è, di quello che c'è dietro, diciamo, i codici e dietro le proposte che dai codici emergono. Per cui si è deciso di, diciamo, appunto, di unirsi in questa cassa di solidarietà, che appunto è solidale nei confronti di chi è toccato, inguaiato dalla repressione. Parliamo sia di persone, di compagni e compagne che lottano, ma anche di persone che vengono incontrate nei nostri percorsi e che a un certo punto si ritrovano appunto colpite dalla repressione e si ritrovano anche in un senso di solitudine, no? Perché quando la repressione colpisce sembra che il mondo ti caschi addosso, e caschi addosso solo alla persona colpita e alle persone più vicine. Questo è, diciamo, un obiettivo che la Cassa di Solidarietà ha, che è proprio quella di in qualche modo stringersi intorno alle persone colpite dalla repressione, di dare anche degli strumenti di conoscenza attraverso pubblicazioni e iniziative che parlino di repressione, che parlino di solidarietà, che parlino della rete che si deve stringere intorno alla persona, e anche attraverso quello che accadrà qui domenica, dei pranzi che vengono organizzati dalla Cassa di Solidarietà La Lima a Strike, ma in questa prossima domenica invece sarà organizzato proprio in questo posto. Quindi ciò che è importante è, appunto, sempre, diciamo, seguendo certi criteri, certi parametri, di non lasciar solo e sola chi è colpito dalla repressione, perché insieme le cose vengono affrontate molto meglio. Ora, quindi, come Cassa di Solidarietà e occupandoci di repressione, alcune delle compagne e delle compagne della Cassa di Solidarietà hanno partecipato alla mobilitazione che è nata a seguito della lotta intrapresa da Alfredo Cospito di sciopero della fame, e una lotta che ha fatto sì che anche molti di noi, anche di chi è presente qua, si incontrasse proprio nelle strade e appunto in tutte le occasioni che ci sono state di occupazione delle strade, di farci vedere, di farci sentire. Una mobilitazione che ha posto delle questioni che forse prima erano state, non forse, anche quasi sicuramente sono state affrontate da nicchie di compagni e compagni, e non erano riuscite, diciamo, a uscire questi argomenti, questi temi, a uscire da queste strette nicchie. Invece con la mobilitazione questo è avvenuto, è andato oltre i nostri confini ristretti e si è parlato tanto, si è parlato tanto di quello che era il 41 bis. Ah, scusate, mi è venuta in mente una cosa adesso, ritorno indietro, stiamo registrando, mi era sfuggito, stiamo registrando, per cui chi non volesse essere, diciamo, registrato ce lo dica e noi spingiamo il tasto off. E un'altra cosa che devo dire, qui ci doveva essere Domenico Porcelli con la sua testimonianza, che un altro è stato detenuto in 41 bis e ha fatto uno sciopero anche lui di 8 mesi, di 9 mesi, è stato detenuto per 5 anni in 41 bis, avrebbe dovuto portare la sua testimonianza, ma insomma sembra che un imprevisto gli abbia impedito di essere qui. Ok, premessa. Allora, dicevamo, quindi ha toccato molti temi la mobilitazione, ha fatto conoscere che cos'era il 41 bis, ha fatto conoscere ancora di più che cos'è il carcere, ha fatto conoscere come questo 41 bis, nato per certe, diciamo, categorie di reati, è stato esteso fino ad arrivare all'applicazione ad Alfredo Cospito, un anarchico, e quindi qual è il tentativo, diciamo, della repressione di allargare questo, diciamo, la possibilità che più persone finiscano in questo regime. Ha anche parlato, diciamo, della costruzione, la mobilitazione, della costruzione del nemico e delle varie emergenze. Emergenze che lo Stato a un certo punto dichiara, e sono emergenze, diciamo, legate appunto a costruire. Ecco, in quel caso abbiamo sentito parlare tanto degli anarchici, anarchici sociali, individuali, insurrezionalisti, chi più ne aveva più etichette ci metteva, però si parlava di anarchismo, quindi si parlava appunto attraverso lo sciopero di Alfredo. E insomma, prima sul 41 bis si parlava di mafia, sembra insomma che ci siano emergenze dietro emergenze, situazioni su situazioni, che rendono indispensabile a un certo punto per lo Stato attuare delle misure repressive di volta in volta sempre più restrittive, di volta in volta, diciamo, rivolte a soggetti, a categorie sempre differenti. Ora, siamo in uno stato evidentemente di guerra permanente nell'attualità, è sempre di più è necessario, diciamo, per lo Stato e per far sì che questi progetti vengano portati avanti di guerra, di avere consenso. Io direi che in questo momento non siamo più alla ricerca da parte dello Stato della pace sociale, ma direi proprio che cercano un ordine ben preciso, un ordine sociale, un ordine costituito, e nessuno deve in qualche modo uscire da questi binari. Questo, diciamo, che il consenso lo Stato l'abbia sempre cercato per poter portare avanti appunto le sue politiche sempre più appunto repressive, ma anche di miserimento, di esclusione, l'ha sempre fatto. Un esempio recente in cui veramente questo, diciamo, questo passaggio è stato, direi, evidente a tutte e a tutti, è stato il periodo del Covid, dove davvero ha raffinato, affinato questa diciamo pretesa di consenso, ed è stato uno dei laboratori probabilmente meglio riusciti rispetto a quelli precedenti. Ora, per appunto creare questa situazione di paura, di timore, di intimidazione, che fa sì appunto che uno si unisca, si aderisca al pensiero unico, sono tanti gli strumenti. Sono i mass media, sono gli intellettuali o pseudotali, tuttologi, sono i canali di comunicazione, quelli, non so come si chiamano, i canali social, e poi ci sono, diciamo, quelli come la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, che si occupa di indagini. Allora, nel caso, perché parliamo e se ne è parlato anche durante la mobilitazione, sono stati fatti anche diversi presidi sotto la sede della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, e un bellissimo capodanno, ultimo dell'anno. Nella fattispecie, nel caso di Alfredo, di Anna, del processo di tanti compagni, Scriptamanent, che è appunto il processo da cui poi è scaturita con la condanna all'applicazione ad Alfredo del 41 bis, qual è stato il ruolo della DNA? È stato duplice. Durante il percorso del processo, diciamo, hanno incalzato tantissimo per poter far sì che fossero condannati per associazione sovversiva, che è uno dei presupposti per cui può essere applicato il 41 bis. Si può dire proprio senza ombra di dubbio, me ne prendo tutta la responsabilità, hanno fatto carte false. E alla fine sono riusciti, diciamo, ad ottenere veramente una, a parte una sentenza che mette le basi per tante altre cose, come tutte le sentenze, ma diciamo una punizione esemplare, oltre appunto all'applicazione del 41 bis, perché ricordo che Alfredo ancora è in 41 bis, è stato confermato ultimamente. Quindi da una parte ha fatto questo durante il processo, dall'altra, quando è stato chiamato a dare un parere l'organismo della DNA a uno dei processi di valutazione sull'applicazione del 41 bis, ha invece detto che per quanto li riguardava, il 41 bis ad Alfredo non era legittimato, non doveva passare, non doveva essere applicato, perché per loro andava bene anche, diciamo, un regime, il carcere è suddiviso in tantissimi circuiti, un regime più blando. Ora, il regime più blando che propongono è veramente una sfumatura più blanda, però avevano detto che loro erano contrari all'applicazione del 41 bis. Questo, diciamo, ora io non voglio creare speculazioni rispetto a questo doppio atteggiamento della DNA, molto probabilmente sono state calcoli interni loro tra le diverse procure, per le quali non ho intenzione di entrare nel merito. Ora, nella mobilitazione, appunto, la DNA, che è sempre stata considerata la parte del bene contro il male, contro i cattivi, contro i nemici, che appunto di volta in volta hanno assunto, ma poi gli interventi che verranno dopo andranno più nello specifico, quindi di volta in volta assumono volti e vesti diverse, l'abbiamo sempre ribadito, lo ribadiamo proprio, purtroppo non credo che sarà l'ultima volta, essere contro le politiche repressive, i metodi repressivi della DNA non significa abbracciare quelli che sono i fini e i mezzi di chi si riconosce nelle associazioni mafiose. I fini e i mezzi di chi si riconosce nelle associazioni mafiose sono autoritari, sessisti, razzisti, discriminatori, patriarcali, avidi. Sono esattamente, a nostro avviso, quelli che persegue lo Stato, per cui noi diciamo siamo contro lo Stato e contro chi si riconosce in questi criteri. Quello che però ribadiamo è che la tortura è sempre tortura, a prescindere da chi la subisce, e che comunque il carcere è sempre carcere e la sua esistenza è dovuta a una società che sicuramente è una società fondata su principi, in questo caso, diciamo in questa situazione, in questa attualità ancora di più, sui quali non concordiamo. Chiaramente l'unico modo per distruggere il carcere sarebbe sovvertire questo stato di cose, questo ordine di cose, per cui diciamo non auguriamo il carcere a nessuno. Ciò non significa solidarietà, significa non augurare il carcere a nessuno. Ogni qualvolta il ruolo della DNA veniva messo in discussione per i suoi metodi poco chiari, se non addirittura veramente sozzi, e la DNA tirava fuori uno scoop, ha sempre cercato di lavarsi, diciamo, di riconquistare quel ruolo di, appunto, di lotta del bene contro il male. Un esempio che mi viene è recente, è che per esempio a 90 giorni dallo sciopero della fame di Alfredo, quando appunto molti anche fuori dallo stretto giro, come dicevo prima, iniziavano a mettere in discussione i metodi della DNA, persino l'esistenza della DNA, guardate, anche tra borghesi liberali la questione veniva messa in discussione, che cosa è successo, se vi ricordate? Dopo quasi 30 anni di latitanza è stato arrestato Messina Denaro, quindi dopo 90 giorni dallo sciopero della fame di Alfredo, è stato arrestato, quindi 30 anni di latitanza, è stato arrestato a Palermo, a 200 metri dalla sede della DIA. Quindi guardate un po', come si dice personalmente, ovviamente è veramente stato uno scoop utilissimo, no? Anche perché dopo pochi mesi Messina Denaro è morto, quindi era ammalato, per cui tutto rientrava, diciamo, tutto filava perfettamente. Guardate, noi siamo ancora utili, noi riusciamo ad arrestare i mafiosi del mafioso, però in quel preciso momento, in un luogo dove, ma diciamo, è difficile nascondersi per 30 anni. Quindi, ripeto, poi sulla definizione di nemici, sulla riproposizione di nemici, si capirà col prosieguo di questa iniziativa. Diciamo che un tempo, negli anni 70, un nemico erano le organizzazioni rivoluzionarie, poi sono diventate le organizzazioni mafiose, poi sono diventate l'immigrazione sono diventati gli islamici, per non parlare di quello che significa essere immigrato e magari permettersi anche di lottare nel posto dove vivi, no? Oppure anche rivendicare un percorso di resistenza nel posto da cui vieni. Ci viene in mente Seif, che si è permesso di esprimere, diciamo, la sua rabbia rispetto a quello che accadeva in Palestina. Ci vengono in mente Annan, Ali, Mansour. Annan si è rivendicato la sua appartenenza a un'organizzazione di resistenza in Palestina, e ci ricordiamo anche Baciu, un compagno con cui molti di noi, diciamo, hanno percorso insieme strade di lotta, che è stato infamato con un reato gravissimo. Ora, quello che riteniamo che sia importante, tenere sempre un forte senso critico quando ci vengono presentati i nemici attuali, perché ogni qualvolta, diciamo, non usando quel senso critico, abbracciamo la narrazione dello Stato, in qualche modo ci diamo la zappa sui piedi, perché sia perché il senso critico è fondamentale, tanto più quando c'è una manipolazione dell'informazione come c'è, del pensiero, e anche perché di nemico in nemico il problema, e lo vedete, diciamo, è molto chiaro con quello che sta succedendo anche agli studenti. Di nemico in nemico quello che succede è che si creano alla fine delle categorie di nemici, per cui non è più l'individuo e la responsabilità dell'individuo che viene colpita, ma è chi sei. Guardiamo, credo che la cosa più chiara sia proprio rispetto all'immigrazione, cioè a un certo punto non è quello che la persona immigrata ha fatto, ma è dell'immigrato che dobbiamo avere paura, è una categoria. E questo è quello, diciamo, che lo Stato vuole assolutamente conquistare, cioè il fatto che ci si divida, si isolino le persone. Per cui, diciamo, per noi della Cassa e di Solidarietà, appunto, ci sembra assolutamente logico fare iniziative di questo tipo. Io credo di aver finito, non ho qualcos'altro da ricordare. Passo la parola a questo punto al compagno che ha partecipato a Pagine contro la tortura, una delle prime iniziative contro il 41 bis, che appunto però erano rimaste di nicchia, che ci farà un intervento un po', diciamo, descrittivo di questa, come si dice, di questa caratteristica tutta italiana, dicono, della mafia. Grazie. Sì, diciamo che abbiamo cominciato come campagna di Pagine contro la tortura a occuparci della questione della mafia. Perché? Perché contestavamo fortemente il ricorso al carcere duro per le ragioni dette finora, insomma, adesso non le sto a ripetere, però constatavamo anche che il grosso dei detenuti italiani che subivano il regime del 41 bis erano quelli che vengono definiti appunto mafiosi, camorristi, 'ndrangheta. Una piccola parte al 41 bis erano quelli che si occupavano invece delle lotte rivoluzionarie, diciamo. E quindi chiaramente si crea la contraddizione di dire come non è che noi, che è quella poi che ti vogliono far vivere, ma come? Ma allora voi siete a favore di liberare i mafiosi perché contestate il regime a carcere duro, ma questi sapete sono quelli che sciolgono i bambini nell'acido e tutta quel tipo di commenti che vengono fuori in Italia quando si parla di mafia. E quindi siamo voluti anche andare a vedere un attimino, anche da un punto di vista storico, come si è arrivati, no? A questo rovesciamento, a questa impossibilità di essere nello stesso tempo contro il carcere duro senza dover per forza fa favorire quelle che sono che è l'etica mafiosa o i ragionamenti mafiosi o l'attività di queste organizzazioni. L'occasione è venuta anche perché ci siamo occupati appunto di sostenere, di portare la nostra solidarietà ad un detenuto al 41 bis, Alessio Attanasio, che aveva scritto un libro, era riuscito nella quasi totale impossibilità di comunicare dall'esterno all'interno che c'è e che è prevista in questo regime, era riuscito a far uscire quelle che era la sua condizione che di fatto corrispondeva a una vera e propria tortura legalizzata. Cioè, mi limito a dire appunto chiuso per 22 ore, 23 ore dentro una cella piccolissima, senza la possibilità di leggere libri, con i colloqui fatti con i vetri una volta al mese, senza la possibilità di abbracciare i propri figli, magari minori, sottoposto alle angherie continue di uno speciale corpo di polizia penitenziaria che sta all'interno del 41 bis, che sono i gruppi operativi mobili, il GOM, che conosciamo anche per essere intervenuti e per aver avuto i loro battesimi nella repressione di una rivolta carceraria in Sardegna, a Sassari, e poi utilizzati anche nella repressione, nelle giornate di Genova. Quindi un corpo, ahimè, famigerato che viene utilizzato apposta per questo tipo di reati. E quindi, cioè, nel tentativo di far conoscere questa realtà carceraria, di presentare questo libro per quello che potevamo, per cercare anche di combattere quello che è l'isolamento mediatico che viene realizzato attorno a questo regime carcerario, che noi abbiamo cominciato a ragionare proprio su come è avvenuta storicamente la creazione di questo particolare tipo di nemico, ossia la mafia. Molto importante perché effettivamente lo si può anche analizzare, studiare, andando a valutare quelle che sono le radici storiche del fenomeno e che di fatto risalgono a che cosa? Cioè, ci chiedevamo com'è che se noi andiamo a vedere le cifre della popolazione detenuta, circa 27.000 detenuti italiani sono nati al sud Italia. Una minima parte sono del nord centro Italia e il grosso, e no, l'altra grossa percentuale chiaramente attualmente sono anche i detenuti che vengono da altri paesi, circa 20.000. Quindi tra Detenuti di altri paesi, detenuti meridionali, siamo quasi a 50.000 detenuti, ecco, la stragrande maggioranza. Se poi andiamo a vedere i detenuti per reati speciali, come dicevamo, quelli che stanno al 41 bis o all'alta sicurezza, noi vediamo che il numero, la percentuale è quasi assoluta di persone che hanno origine meridionale. Allora, questo chiaramente poi comporta il fatto che in quella che è l'operazione mediatica, chiaramente si fa corrispondere quelle che sono fredde cifre statistiche, dati statistici, ossia il numero dei detenuti, corrisponde poi anche un certo tipo di narrazione per cui, ah no, al sud è giusto, ci vuole più polizia, ci vuole l'esercito, la criminalità va combattuta con un aumento della repressione. Ed è difficile chiaramente inclinare questo tipo di, come dire, di commento collettivo forcaiolo che c'è rispetto alla situazione del meridione. Però in realtà questa narrazione non è una cosa degli ultimi giorni, cioè viene da molto lontano, viene, si può dire, dall'Unità d'Italia. Cioè quella che viene celebrata sui libri di storia con enfasi retorica come ah bella l'Unità d'Italia, l'Unità d'Italia, in realtà altro non è stato fondamentalmente che un processo di colonizzazione interna operato da quella che era al tempo la regione dominante settentrionale, ossia il Regno di Piemonte. Chiamiamolo come era, Regno di Sardegna addirittura, ma non perché il suo centro operativo fosse in Sardegna, era in Piemonte, ma la prima colonizzazione che avviene è nel 1900, attorno al, scusate, al 1820, proprio ad opera della Sardegna. Cosa succede? Che il Piemonte, una piccola potenza europea rispetto ad altre che c'erano, per esempio la Francia e la Gran Bretagna, perde terreno rispetto a quelle che erano le prime avventure coloniali, soprattutto in Africa, ma anche in Medio Oriente, e decide avendo perso il treno di quel tipo di possibilità coloniale, decide di dedicarsi a una colonizzazione interna, prima con la Sardegna, poi con tutto il meridione e con le isole. Attenzione, dando vita cioè, fondando questa pretesa unità dell'Italia sotto una bandiera di ideali che di fatto oggi vengono celebrati sui libri di storia, ma anche allora funzionarono anche il meridione, perché parte della popolazione, quella più povera, credeva in un ideale di distribuzione delle terre, di redistribuzione delle terre rispetto a come le cose erano andate prima. In realtà si può dire che quello che sia stato ereditato dal Regno di Piemonte, dalle regioni meridionali, sono stati il debito pubblico piemontese, la leva obbligatoria e i carabinieri. Fondamentalmente queste sono le tre cose fondamentali che ha guadagnato il Sud da questa operazione coloniale. Tanto che, citando Nicola Zitara, che ha scritto un testo proprio su questa tematica, lui dice: l'esercito italiano è il filo di ferro che ha cucito l'Italia e l'ha tenuta unita. Cioè, questo per dire come, rispetto alla situazione pre-unitaria, quello che è successo dopo è assolutamente molto più grave per la popolazione. Tanto che si contano almeno a 20.000 le persone, cioè le persone che comunque, dopo che sono state frustrate le promesse di distribuzione delle terre, hanno provato a ribellarsi. Abbiamo i vari fenomeni etichettati come brigantaggio, eccetera, eccetera. In realtà c'è stata quella che era un primo tentativo insurrezionale a questa colonizzazione e soffocato nel sangue. Chiaramente, quindi, cosa abbiamo? Che quella che viene definita come Unità d'Italia in realtà è un vero e proprio processo di colonizzazione interna, con lo scopo di mantenere in una condizione di sottosviluppo permanente le regioni meridionali e a beneficio delle regioni più ricche settentrionali, vedi appunto Regno di Piemonte, ma non solo. Chiaramente è qui che si inserisce anche il fenomeno, diciamo, della mafia, perché chiaramente quelle che erano i centri di potere, le classi dominanti del meridione di allora, soprattutto i grandi proprietari terrieri, ma anche la borghesia, cioè una parte della borghesia intellettuale, vengono utilizzati allo scopo di essere punto di riferimento delle banche settentrionali, dei governi settentrionali, allo scopo di controllare, di essere un punto di riferimento per controllare appunto la popolazione, la stragrande maggioranza che era invece in uno stato di povertà della popolazione meridionale. Ora, questo avviene soprattutto in un primo tempo e fino, si può dire, agli anni, a buona parte degli anni 70, nel coadiuvare lo Stato nella repressione delle rivolte, per esempio le rivolte contadine, ma in generale tutte le lotte sociali. Cioè in questo caso la mafia interviene a favore di dei ricchi governi settentrionali. Ma nel tempo poi, quando il problema non era più legato tanto a questa cosa, si pone il problema invece dello scontro tra organizzazioni mafiose per il controllo del territorio, che ha sempre comunque lo scopo di ottenere un controllo capillare del territorio funzionale allo Stato. Tanto più quando nel dopoguerra intervengono anche i nostri liberatori cosiddetti, ossia gli Stati Uniti, cioè in particolare gli americani, diciamo gli alleati li chiamavano, ma dico in particolare gli americani perché sono loro poi a sbarcare in Sicilia. E quindi a quella che è diciamo il dominio statale, che in origine era stato piemontese, poi diviene nazionale, però con base in settentrione, si aggiunge e tenderà sempre più, fino a quello che vediamo adesso, a soppiantare e a tenere in secondo ordine quello italiano, anche quello del governo degli Stati Uniti e soprattutto della potenza militare degli Stati Uniti, perché l'Italia aderirà al patto atlantico e quindi di fatto diventiamo un burattino della NATO in particolare. Questo lo vediamo tuttora perché se noi consideriamo, anzi lo vediamo da prima perché attenzione, questo fenomeno avviene già negli anni 60 e 70 perché, ad esempio, non dimentichiamo una delle attività principali su cui si regge, per esempio, l'economia mafiosa è il traffico degli stupefacenti, no? Però non dimentichiamo che in Italia, a invadere l'Italia di eroina, fu un'operazione della CIA, l'operazione Blue Moon, con cui si riempirono le piazze italiane di eroina, proprio per stroncare quello che era un movimento crescente rivoluzionario in Italia durante la fine degli anni 60 e durante gli anni 70, e chiaramente in questo senso la mafia funzionava come, nella sua connivenza, come aveva in mano, per conto degli Stati Uniti e del governo italiano, parte del governo italiano, aveva in mano il traffico degli stupefacenti. Ma pensiamo anche, per esempio, alle cosiddette stragi che vengono chiamate stragi fasciste o stragi di Stato, ma la regia di queste stragi era, cioè l'esplosivo veniva preso dalle basi NATO di Aviano, dalle basi NATO di Camp Derby, e la regia di questo tipo di operazione, di questa guerra, veniva chiamata guerra non ortodossa, nel senso che non c'era un nemico vero, serviva a creare terrore per ristabilire ordine, era degli Stati Uniti. Ora, questo è importante perché anche lì nella retorica si parla solo di stragi di Stato, di stragi fasciste, ma nessuno dice stragi degli Stati Uniti, stragi della NATO o operazioni di riempire di droga l'Italia a opera della CIA. Cioè, spesso nella narrazione manca questo pezzo importante. Cioè, tornando a noi, chiaramente ecco, se da questo mix, diciamo, quindi di sottosviluppo, perché chiaramente la cosa che interessava di più ai governi settentrionali, alla ricchezza, al nord industriale, chiamiamolo così, e al potere militare congiunto italo-statunitense, era soprattutto che il sud rimanesse in una condizione di sottosviluppo, cioè che non si sviluppasse per conto suo, che non nascessero industrie, fabbriche, attività economiche per cui in qualche modo il meridione potesse emanciparsi dal settentrione. Doveva rimanere in quello stato. Questo elemento, più quello del controllo del territorio garantito anche dalle organizzazioni mafiose, non ha lasciato molte possibilità. E qui arriviamo al punto per cui poi si riuscirà a creare facilmente un nemico. Non lascerà molte chance alla popolazione meridionale rispetto a una possibile emancipazione, perché la popolazione poteva, o come può tuttora, o essere sfruttati nelle campagne pagati 2 lire o nei cantieri o nelle poche fabbriche che c'erano, quasi tutte a conto terzi, cioè quasi tutte messe lì dagli potentati industriali occidentali, cioè occidentali del nord in questo caso, vedi la Fiat ad esempio, o ricorrere all'illegalità, non sempre ma spesso sotto sul libro paga delle organizzazioni mafiose, lavorare per le forze repressive, quindi chi riusciva a diventare carabiniere o poliziotto, emigrare al nord come in un secolo circa 20 milioni di meridionali sono stati purtroppo costretti a fare e continuano a farlo. Poi non mi dilungo su quello che oggi viene chiamato lo pseudo sviluppo delle regioni meridionali basato su un turismo che in realtà altro non è che fare dei favori alla speculazione edilizia con affitti brevi o creando posti di lavoro assolutamente precari, sempre nell'ambito turistico, magari poi dopo ci torniamo su. Però, ecco, questo per concludere, risulta quindi, se questo è il panorama storico, risulta, cioè, meno difficile comprendere come la richiesta di carcere duro, di maggior repressione, che viene portata avanti in modo enfatico soprattutto dai media, giornali, programmi televisivi, eccetera, che è stata portata avanti storicamente, che viene portata tuttora o che viene utilizzata tuttora, come si diceva, per intervenire nel momento in cui c'è una perdita di legittimità, anche non enorme, però da parte appunto di chi si occupa di questo tipo di repressione. E allora, in questo caso, vediamo che rimane difficile riuscire a capovolgere questa situazione. In realtà questa situazione contribuisce innanzitutto a nascondere quelle che sono le responsabilità storiche e attuali anche dello Stato italiano prima e del contributo anche di quello che è il cosiddetto alleato degli Stati Uniti poi nel processo di colonizzazione del meridione delle isole, ma anche oltretutto contribuisce a legittimare quello che poi viene portato avanti dai terminali repressivi ultimi di questo tipo di logica, che sono in ambito giudiziario, politico-giudiziario, chiamiamola la Direzione Nazionale Antimafia, e in ambito carcerario il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che alla fine cosa fanno? Cioè legittimano un sistema repressivo e carcerario basato su che cosa? Basato sul completo arbitrio, l'arbitrio più assoluto negli arresti, nella repressione delle persone, la legittimazione totale della tortura, la soppressione di ogni garanzia per quanto riguarda le procedure di arresto, di reclusione e tutto quello che ha a che fare con l'ambito repressivo, ma soprattutto costringono praticamente la popolazione a collaborare con il loro carnefice. Questo è il vero problema. Cioè, le persone stesse che hanno messo il meridione in questa situazione, che l'hanno costretto in ginocchio, poi creano e hanno creato le basi per avere un'organizzazione dello Stato anche a base mafiosa, però ti dicono io sono quello che ti ho creato, ma tu devi collaborare con me per evitare di essere, come dire, di sottostare anche tu a questo tipo di regimi carcerari, a questo tipo di regimi repressivi. Cioè, l'assurdo è questo qui, che sono stati queste stesse persone che adesso hanno in mano l'organizzazione repressiva rispetto al meridione a creare le condizioni per cui queste organizzazioni prosperassero e andassero avanti e potessero fare affari. Dove, attenzione, poi chiudo anche su questa cosa, dove non dimentichiamo che però anche in queste organizzazioni c'è chi sta sopra, c'è chi guadagna i miliardi, c'è chi vive nelle ville, chi può permettersi la bella vita, ma la maggior parte sono tutti i cosiddetti operai di queste organizzazioni, sono quelli che fanno i lavori più sporchi, quelli che non sanno come campare se non fanno questo. E non lo dico tanto con tono giustificatorio, ma per far capire che questa differenza, chiamiamola di classe, esiste anche a questo livello, fomentata, sponsorizzata e garantita dal nostro Stato, dalle nostre istituzioni politiche e militari. Questo è quello che succede, che è successo in questo processo di colonizzazione interna rispetto all'Italia del Meridione, ma è quello che succede in ogni processo di colonizzazione di altri paesi, soprattutto dei paesi del cosiddetto sud del mondo. Grazie, se poi dopo ci avete ancora da dire. Allora sì, appunto, come è stato detto, poi le domande, le suggestioni sono tante, e era anche poi l'intento di questo incontro, era appunto provare a raccontare la creazione del nemico interno in quanto autoctono, cioè italiano, interno all'Italia, anche perché sennò si può cadere in una confusione in questo, il nemico interno che va di pari passo, e le similitudini sono già uscite abbastanza chiare, con il nemico esterno. Con esterno intendiamo coloro che vengono da un altro paese e si trovano a vivere in questo. Quindi adesso appunto cerchiamo di fare questo passaggio. Lorenzo, che è qui con noi, Lorenzo D'Agostino, giornalista freelance, ci racconterà meglio. Noi proviamo un po' a fare un raccordo, in un certo senso, appunto la DNA, che è ancora DNA, quindi con una sola A, l'antimafia, si trova appunto in una fase tra la fine degli anni 90 e inizio anni 2000, in cui le mafie, con le loro modalità anche note soprattutto appunto a chi magari ha una certa età e le ha anche potute vivere direttamente, nel senso magari attraverso le televisioni, con la sua efferatezza, con anche questa narrazione di questa mafia cattiva e feroce, sembra venire meno. Ovviamente sembra, non è così, però il ruolo della DNA, il suo potere, i suoi strumenti e tutte le sue competenze devono continuare a marciare, devono continuare a lavorare, quindi c'è bisogno di trovare nuovi nemici. E dal 2000, diciamo, è costellato da una serie di episodi. Ovviamente noi abbiamo individuato delle date per non stare qui 3 ore a parlare, perché poi queste cose hanno origine da più tempo, appunto. I passaggi indietro li abbiamo già provati a fare. E il 2000 inizia con l'11 settembre 2001, quindi con l'attentato alle Torri Gemelle e altri luoghi negli Stati Uniti, e da lì viene messo, diciamo, viene accelerata tutta una serie di procedure che erano già in nuce, erano già nelle tasche, nei pensieri di chi controlla, di appunto controllo e sicurezza 360. Questo accade non solo negli Stati Uniti, ma accade in tutto il mondo, quindi anche qui, anche in Europa, anche in Italia. E ovviamente l'immigrato, o meglio in quel caso musulmano islamico, diventa il nemico numero uno, che ancora oggi, con l'attacco di Israele alla Palestina, è ritornato ad essere di nuovo il nostro nemico. Quindi abbiamo il 2001, abbiamo poi appunto un susseguirsi di eventi. Adesso tocchiamo solo alcune date come risposta, forse tra le più emblematiche, che vengono messe in campo contro questo nuovo nemico che è l'immigrazione. Ricordiamo il governo Maroni con il pacchetto sicurezza nel 2009, che arriva innanzitutto a istituire il reato di clandestinità, quindi pone delle basi feroci sulla condizione di migliaia e migliaia di persone. Sempre nello stesso pacchetto sicurezza vengono attivata l'operazione Strade Sicure, che significa militarizzazione delle nostre città e significato anche militarizzazione di moltissimi centri d'accoglienza. Ricordiamo poi, subito dopo, abbiamo quello che molti, diciamo, da un punto di vista forse occidentale, bianco, europeo, hanno chiamato le primavere arabe nel 2011, quando ci sono state delle rivolte importantissime, partite da qua dietro, dal Nord Africa, arrivate fino al Golfo Persico, passando per i Balcani. Hanno buttato giù due dittature ultradecennali in Tunisia e in Egitto. si è creata anche una forte esplosione di gioia tra moltissime persone che forse per la prima volta riuscivano a lasciare il paese per vedere cosa succedeva anche negli altri, perché si emigra anche per altri motivi, anche per viaggiare si emigra. E lì forse lo ricorderemo tutti un po' più recente, il 2011, come appunto sia l'anno di queste rivolte, l'anno in cui la NATO ha iniziato a bombardare la Libia perché la Libia andava controllata, l'anno delle barche cariche di immigrati, le bombe di Gheddafi, come lui stesso le definiva, verso l'Europa, quindi con un attenzionamento che poi si è anche visto nei nostri territori. Quegli anni sono stati anni di internamento delle persone immigrate e di grandi sperimentazioni che poi sono durate nel 2015 e 16, ma noi ci fermiamo prima. Li hanno anche, diciamo, nel vivo di una della più feroce crisi economica finanziaria di tutti i tempi, con il 2012, che è stato una crisi iniziata nel 2008 formalmente, il 2012 è stato l'anno anche più crudele, quindi in uno scenario di cambiamenti epocali e anche di rivolte effettive o potenziali, c'era bisogno di far ripartire la macchina della repressione, la macchina del controllo, però andava, diciamo, trovato un nuovo nemico. E quindi nel 2013 viene l'allora direttore della DNA Franco Roberti, caro amico, discepolo di Falcone, ha questa brillante idea di dire: ok, allora tutto quello che è stato finora utilizzato per individuare mafiosi e quant'altro verrà trasportato nel controllare flussi migratori, in particolare quelli dalla Libia, cui meccanismi appunto ce ne parlerà Lorenzo. E un'altra suggestione che metto qua, di cui anche su questo Lorenzo appunto ci racconterà meglio, sempre nella creazione di questo nemico esterno, è quello che riguarda appunto quello che forse anche qua è qualcosa che magari echeggia nelle nostre teste, il famoso e inventato fenomeno della mafia nigeriana, che anche qui la stessa Presidente del Consiglio si è spesa, prima di essere Presidente, nella scrittura anche di un libro insieme ad altri esperti per andare ad avallare questa tesi, che comunque appunto anche la mafia nigeriana è un nemico. Ricordiamo quindi diverse di noi che magari negli anni si sono ritrovate a lottare qua a Roma o anche nelle regioni del Sud Italia, in Calabria, in Puglia, con persone provenienti dall'Africa subsahariana per mettersi di traverso a progetti di controllo e quant'altro. La stampa in tutta risposta diceva: queste azioni sono organizzate dagli anarchici insieme alla mafia nigeriana, dove magari di nigeriano non ce n'era neanche nessuno. Questo appunto un po' per capire come è stato calcato da vari punti la mano. A te. Grazie. Grazie per queste belle introduzioni. Allora, grazie a chi mi ha invitato e grazie a chi è venuto ad ascoltarci. Io mi permetto, dirò quello che mi è stato chiesto di dire da chi mi ha introdotto. Quindi cercherò di raccontare un po' attraverso episodi concreti, diciamo raccontando un po' la gestione concreta di determinate indagini, come una struttura, come la Direzione Nazionale Antimafia, una struttura anomala, diciamo, che ha pochi paralleli nel resto del mondo democratico, tra virgolette, riesca a costruire dal nulla, diciamo, cioè su una base di realtà inesistente, riesca a costruire invece delle vere e proprie mafie immaginarie, mettendo a lavoro appunto gli strumenti che gli fornisce il nostro codice. Però permettetemi un'introduzione, perché io sono molto contento di avere l'opportunità di parlare a questa accampata, e vorrei dire che c'è un filo che connette quello che succede in questi giorni a Gaza e invece il tema più specifico della Direzione Nazionale Antimafia. Non credo che sia una forzatura. E questo filo conduttore è l'industria della sorveglianza, l'industria del controllo, che è la premessa indispensabile per poi la disumanizzazione dell'avversario e la creazione del nemico, perché intanto diciamo si possono costruire narrazioni così fantasiose e articolate, in quanto c'è un controllo proprio, una sorveglianza sugli individui che si vogliono costruire come nemici, molto efficace. E questa industria è un'industria, l'industria della sorveglianza proprio, stiamo parlando di imprese tecnologiche che si occupano della costruzione, dello sviluppo di software spia, di dispositivi di intercettazione sempre più attivi, ed è un'industria che è legata a doppio filo all'industria israeliana, che è campione nel mondo da questo punto di vista. Ho trovato recentemente una dichiarazione dell'amministratore delegato di un'impresa italiana che si chiama RCS Lab. RCS Lab è la principale impresa che si occupa di intercettazioni in Italia, sono quelli che prendono i contratti dalle procure per fare le intercettazioni, e l'amministratore delegato di questa eccellenza italiana diceva: per noi Israele è il nostro competitor principale, ma anche la nostra principale fonte di ispirazione, perché loro sono i più avanzati appunto nello sviluppare questo tipo di dispositivi. E questa RCS Lab compare continuamente nelle carte processuali, diciamo, che io ho studiato negli ultimi anni, perché sono appunto tenuti in piedi proprio economicamente dagli appalti delle procure antimafia, che ordinano e hanno il potere di ordinare sorveglianza a tappeto, intercettazione a tappeto, che sono, come vedremo, uno strumento fondamentale. Prima di entrare più nel vivo, diciamo, delle inchieste, però io vorrei fare un attimo di background su che cos'è la Direzione Nazionale Antimafia come istituzione e da dove nasce. Perché, appunto, dicevo, è un'istituzione anomala per certi versi nei paesi democratici. Prima di tutto, quando è nata? È nata sotto un governo, per iniziativa di un governo che chiunque, diciamo, conosca un po' di storia italiana, associa proprio all'impegno antimafia, il governo di Andreotti. E nel concreto il ministro della giustizia di un partito che tutti gli italiani associamo anche all'anticorruzione, la pulizia, diciamo, che è il Partito Socialista, il ministro Claudio Mattelli, che non a caso è il ministro che crea la Direzione Nazionale Antimafia ed è anche il ministro che passa la prima legge restrittiva, diciamo, sull'immigrazione e l'asilo in Italia. Quindi è importante notare come questi sviluppi, diciamo, del sistema giudiziario repressivo sull'antimafia vadano di pari passo agli sviluppi legislativi sul controllo migratorio. E il dibattito che c'è nel 92 in Parlamento sull'approvazione di questa nuova superprocura, come la chiamavano allora i giornali, è ferocissimo, perché certi attori, insomma, cioè, c'era un'opposizione molto violenta da parte di quello che era stato il Partito Comunista, era da poco diventato il Partito dei Democratici di Sinistra, che per bocca di Luciano Violante, una persona che poi ha preso una deriva tremenda, ora lo ritroviamo come, mi sembra, lobbista delle università digitali, credo che sia il suo ultimo riciclaggio professionale, che però all'epoca evidentemente ancora ragionava, e nel dibattito parlamentare sull'approvazione della DNA metteva appunto in fila i punti critici di un'istituzione di questo genere, spiegando che la Costituzione italiana, che prevede, diciamo, il giudice naturale, quindi prevede che ciascuno sia giudicato dal giudice di prossimità, diciamo, dalla procura di prossimità territoriale rispetto a dove il delitto ipotetico è stato commesso, veniva completamente stravolto dall'istituzione di un super procuratore che aveva nei confronti delle varie procure distrettuali, quindi dei procuratori in ogni provincia, poteri di indirizzo, coordinamento e addirittura il potere di avocare a sé indagini nel momento in cui ritenesse che la procura distrettuale non stesse facendo, diciamo, il lavoro che ci si aspettava. Questo super procuratore, di nomina in parte autonoma da parte, diciamo, del corpus giudiziario, in parte con forti influenze politiche, come insomma per qualsiasi nomina in Italia e non solo, che sarebbe stata una figura di problematico raccordo tra una serie di istituzioni dello Stato che in teoria dovrebbero mantenersi autonome nella teoria liberale, insomma, dello Stato l'una dall'altra. Quindi un procuratore che sarebbe stato soggetto a influenze politiche e avrebbe lavorato a stretto contatto con altri apparati di sicurezza come i servizi segreti, e che era un po' un ibrido tra un magistrato e un poliziotto. Quindi, diciamo, noi tutti questi elementi, l'influenzabilità politica, appunto, diciamo, la disponibilità politica della Direzione Nazionale Antimafia nel soddisfare certi desiderata che vengono dal mondo politico, la possibilità di utilizzare apparati che invece con l'apparato giudiziario non si dovrebbero mischiare, tipo i servizi segreti, sono tutte caratteristiche che noi poi ritroviamo appunto in pratica nelle indagini di cui ora parlerò. Tutte queste critiche ovviamente saltano nel momento in cui nel 92 ci sono gli attentati contro Falcone e Borsellino. Il voto che approva la Direzione Nazionale Antimafia in Parlamento è proprio il giorno dopo l'attentato che uccide Falcone. Contro Falcone la stampa, fino a quel momento anche insomma, la stampa progressista, soprattutto era molto critica, veniva vista come una figura appunto che voleva un po' confondere le linee di separazione tra i poteri, veniva giudicato in maniera molto severa questo suo progetto di Direzione Nazionale Antimafia. Tutte queste critiche spariscono completamente, vengono cancellate dalle bombe di Capaci e non se ne parla più. Quindi diciamo la Direzione Nazionale Antimafia diventa questo moloch potentissimo con un potere non solo di mobilitazione proprio fisica, di controllo sui corpi, insomma di controllo delle forze dell'ordine, ma con un potere fortissimo di mobilitazione simbolica di quella lotta, no, dei buoni contro i malvagi, del bene contro il male, di cui parlava Marina nell'introduzione. Che cosa succede? Che quando finisce, diciamo, la logica emergenziale degli anni 90, della lotta alla mafia in Italia, e la mafia diventa oggettivamente non più violenta, diciamo, necessariamente, o comunque con una violenza più subdola e più sottile, si ricicla su altro tipo di reati, reati finanziari, che a volte sono difficili proprio da distinguere dalle dinamiche paracriminali proprie del sistema capitalista, e quindi diciamo si inaugura una stagione di obiettiva pochissima violenza in Italia. Ora è importante anche ricordare il fatto, perché noi viviamo sommersi dai luoghi comuni, no? Sull'Italia, un paese pericoloso, le forze dell'ordine. Noi siamo uno dei paesi al mondo con il più alto numero pro capite di forze dell'ordine, e siamo uno dei paesi più sicuri al mondo, cioè con il più basso tasso di omicidi, il più basso tasso di violenza. Questa cosa io dubito che sia percepita dal senso comune degli italiani, grazie appunto anche a questo tipo di discorsi emergenziali che vengono portati avanti continuamente dalla non ultimi le persone che fanno il mio mestiere. In questo nuovo scenario appunto in cui la Direzione Nazionale Antimafia deve trovarsi un lavoro per continuare a esistere, perché subentrano logiche appunto aziendalistiche, burocratiche, in cui le istituzioni devono giustificare la propria esistenza, devono giustificare i propri budget, che diventano sempre più corposi anno dopo anno, e in che modo la Direzione Nazionale Antimafia giustifica il proprio budget? Con indagini ai sensi dell'articolo 416 bis del codice penale, che punisce l'associazione di tipo mafioso. Questa è un'altra delle criticità che veniva evidenziata al momento della sua approvazione, cioè si diceva: ma com'è possibile ab origine, diciamo, stabilire la natura mafiosa di un determinato reale, di un determinato reato? Cioè, che un determinato reato sia di tipo mafioso è una cosa che dovrebbe emergere nel corso delle indagini. Invece il fatto che l'indagine parta come un'indagine, diciamo, di mafia, crea una specie di pregiudizio di origine, in cui determinati fenomeni, diciamo, vengono definiti come mafiosi a priori, e poi si accumula, diciamo, con la sorveglianza il materiale probatorio atto a dimostrare questo teorema di partenza. Questo noi lo vediamo succedere a partire dal 2013. È stata ricordata la strage di Lampedusa, il naufragio del 3 ottobre 2013, che è una strage che noi un po' ipocritamente ricordiamo come la peggiore mai avvenuta nel Mediterraneo. È stata sicuramente una strage terribile, ce ne sono state anche di peggiori. Quello che contraddistingue quella di Lampedusa del 3 ottobre è che i cadaveri ci sono arrivati letteralmente sulle nostre spiagge, quindi diciamo era impossibile ignorare, era visibile. Ed è una strage con delle pesantissime responsabilità istituzionali, quella del 3 ottobre e quella della settimana successiva, che è passata poi alla storia come il naufragio, la strage dei bambini, il naufragio dei bambini perché c'erano una sessantina di bambini siriani sulla nave che naufragò a poche miglia da Lampedusa, e sono entrambi stragi con fortissime responsabilità istituzionali italiane. Nel caso della strage del 3 ottobre ci furono varie testimonianze da parte dei pescatori che prestarono i primi soccorsi, che dicevano di aver chiamato invano la Guardia Costiera e che la Guardia Costiera non era uscita. Poi questi pescatori testimonieranno di essere stati convocati dalla Guardia Costiera e di aver ricevuto pressioni per farli cambiare dichiarazioni. Uno dei pescatori dirà: mi è stata promessa una medaglia al valore se io avessi detto che avevo chiamato la Guardia Costiera anziché alle 5:30 del mattino, che l'avevo chiamata alle 8. Poi quando io ho rifiutato di cambiare versione, allora sono passati alle minacce. C'è proprio un tentativo di depistaggio rispetto alle dinamiche di quella strage. Nel caso della strage dei bambini, è un'indagine che finirà, l'indagine per l'omissione di soccorso finirà alla Procura di Roma, che negli anni 70 veniva chiamata il porto delle nebbie, perché le indagini che approdavano alla Procura di Roma poi finivano insabbiate, dimenticate, ed effettivamente la Procura di Roma è esattamente quello che prova a fare con il naufragio dei bambini, dicendo che, chiedendo il non luogo a procedere, insomma, nei confronti degli ufficiali della Guardia Costiera che erano stati imputati, tanto che il giudice per le indagini preliminari, sulla base del materiale probatorio, diciamo, inconfutabile, è costretto a chiedere l'imputazione coatta degli ufficiali della Guardia Costiera, malgrado la richiesta in segno contrario della Procura, e si arriverà pochi mesi fa a un'assoluzione per prescrizione che però certifica invece appunto che l'Italia è venuta meno ai propri doveri di soccorso. Quindi in questo contesto in cui lo Stato italiano inizia a letteralmente ammazzare le persone in mare, la Direzione Nazionale Antimafia alza la mano e dice: so io come gestire la questione. Ora, noi delle responsabilità istituzionali ci dimentichiamo e postuliamo l'esistenza invece di reti di trafficanti transnazionali che si ramificano appunto fino al villaggio più sperduto dell'Africa occidentale e che passano attraverso il Mali, il Niger, la Libia, che controllano le coste libiche e che, questo è un altro teorema che è stato spesso ripetuto senza mai poter provare nessun elemento probatorio a riguardo, collaborano con le mafie italiane, no? Questa idea di voler costruire, no? Questa immagine complessiva in cui viene tenuto insieme la persona che magari si mette quattro persone in taxi e fa passare il confine col Burkina Faso dall'Africa occidentale, a poi il clan mafioso siciliano che si vogliono tutti mettere, no? Nello stesso calderone. Quindi viene creata questa immagine appunto di questa mafia transnazionale che convoglia gli immigrati verso l'Italia, che è un'immagine prima di tutto del tutto falsa, del tutto irrealista, nel senso che le organizzazioni criminali che effettivamente esistono e che si arricchiscono dal contrabbando di persone esistono e sono forti solo in quei colli di bottiglia creati dalle politiche di frontiera dell'Unione Europea. L'esempio, diciamo, manualistico è quello della città di Agadez in Niger, che è il punto di snodo, diciamo, il punto d'ingresso al deserto del Sahara, da cui passa la maggior parte delle persone che dall'Africa occidentale si vuole spostare verso le coste libiche. Agadez è una città storicamente caravaniera, insomma, una città che basa la sua economia sul trasporto di merci e persone. Nel 2015 l'Unione Europea va dal Niger e dice: voi dovete passare una legge che rende illegale il trasporto di africani subsahariani al nord di Agadez. Quindi fino ad Agadez, considerate che l'Africa occidentale è una zona di libero movimento e scambio simile all'Unione Europea, che si chiama ECOWAS, diciamo, che ha tutta una serie di problemi a città, però no, non è questa la sede. Però quindi le persone non hanno bisogno di contrabbandieri, non hanno bisogno di trafficanti per spostarsi in tutto il primo tratto, diciamo, del tragitto migratorio. Hanno bisogno di organizzazioni un po' più sofisticate, laddove subentra appunto il collo di bottiglia imposto dalle politiche migratorie europee, che impongono appunto nel 2015 al Niger questa legge. E quindi, con un tratto di penna, da un giorno all'altro, quella che era un'economia fondamentalmente di conducenti di autobus e tassisti, viene ridefinita, riclassificata come un'economia di traffico di persone, di trafficanti. Quando ho visitato Agadez, le persone del luogo mi raccontavano che l'economia locale è stata completamente devastata appunto da questa iniziativa e con le conseguenze che ci sono state anche in termini di insurrezioni islamiste che facevano appunto leva sul malcontento della popolazione e che hanno reso la zona del Sahel, insomma, una delle zone più calde, più violente in questo momento l'Africa. Quindi questo. E invece l'immagine che ci viene proposta dalla magistratura italiana è di un'organizzazione, ripeto, tentacolare che si estende dall'Europa fino al più remoto villaggio del Senegal o della Costa d'Avorio. E ovviamente per poter propagandare questa idea fondamentalmente falsa bisogna pur sempre dare in pasto ai giornali, all'opinione pubblica, qualche individuo concreto che tu puoi indicare come il trafficante. E siccome i trafficanti, ovviamente, cioè persone che effettivamente fanno dei profitti dal muovere persone, si guardano bene dal mettersi su un barcone fatiscente per rischiare la vita per arrivare in Italia, le uniche persone alla portata effettivamente della magistratura italiana sono quelli che sono stati chiamati poi gli scafisti, cioè i conducenti dei barconi. Tipicamente la media, diciamo, da quando è iniziata la, tra virgolette, crisi migratoria, che è un'espressione con cui io non sono d'accordo perché semplicemente i numeri non la supportano, nel senso che quella che noi chiamiamo crisi migratoria in realtà si riferisce a una percentuale di migrazione verso l'Europa che fondamentalmente si aggira intorno al 5%, il 95% di quella che è la vera migrazione verso l'Europa avviene attraverso gli aeroporti ed è quindi perfettamente invisibile. Vi dico solo un numero, credo che nel 2023 in Spagna, dove vivo, siano state registrate all'incirca 130.000 richieste di asilo da parte solo di colombiani, venezuelani e peruviani. Queste 130.000 richieste d'asilo non vengono registrate come dall'opinione pubblica come crisi migratoria, viene registrata come crisi migratoria invece le 40.000 persone che arrivano con i kayuk, con i barconi in legno alle Canarie. Perché? Perché l'immigrazione che avviene attraverso gli aeroporti è invisibile e quindi non problematica. Ovviamente chi può arrivare in un aeroporto o chi deve arrivare con un barcone attraverso un'operazione di salvataggio è anche quella una cosa che si cambia con un tratto di penna. Sono le liste della politica dei visti dell'area Schengen che stabiliscono che una persona dal Sud America può prendere un aereo e venire in Italia e invece una persona dall'Africa o dall'Asia non può entrare in un aeroporto, deve mettersi su un barcone e quindi viene artefatta in questa maniera, no, questo stato di crisi. La Direzione Nazionale Antimafia inizia una ferocissima campagna di arresti nei confronti appunto dei piloti dei barconi e dei presunti scafisti. E qua ci sono delle contraddizioni che sono anche interessanti da analizzare. Chi ha parlato prima di me ha ricordato il reato di clandestinità introdotto da Maroni. Ora, controintuitivamente, la Direzione Nazionale Antimafia, io parlo, faccio questo inciso, sulla base di verbali di riunioni interne e carte giudiziarie che noi nel corso degli anni diciamo siamo riusciti a accumulare attraverso varie fonti, quindi quando parlo dei comportamenti di questo attore istituzionale e delle sue varie diramazioni diciamo, nella polizia, lo faccio sulla base proprio di quello che loro si dicono tra loro a porte chiuse che noi riscontriamo nei verbali. Inizia quindi la DNA una campagna sul Parlamento per l'abolizione del reato di clandestinità. Cioè loro chiedono con molta veemenza di abolire il reato di clandestinità. Perché? Perché in base al reato di clandestinità ogni persona che arriva, tra virgolette, illegalmente in Italia è un imputato di un reato. In quanto imputato di un reato, deve essere sentito, se nel momento in cui rilascia le dichiarazioni alla polizia sull'eventuale scafista, perché insomma l'arresto degli scafisti funziona sempre nella stessa maniera, vengono fatte interviste ai passeggeri del barcone e gli viene detto: tu ci devi dire chi guidava e in cambio avrai il permesso di soggiorno per ragioni di collaborazione con la giustizia. Questo l'istituto, no, della protezione del collaboratore di giustizia che nasce per proteggere chi usciva, insomma, i pentiti, appunto, i pentiti di mafia, viene poi pervertito in questa maniera nei confronti del richiedente asilo a cui viene detto: tu c'hai i documenti, se tu mi dici chi guidava e noi ti chiamiamo collaboratore di giustizia. Questa cosa è molto problematica nel momento in cui il testimone è imputato di reato connesso, come si dice diciamo in termini tecnici. Perché? Perché lo devi interrogare con un avvocato. Quindi tutto il problema della DNA con il reato di clandestinità era che loro dovevano mettere gli avvocati ai testimoni. E siccome il testimone, nel momento in cui c'ha l'avvocato, si rende conto che magari la storia non è proprio come gliela sta raccontando la polizia o come gliela sta raccontando il procuratore, questa cosa li metteva in grandissime difficoltà. Poi non ce la fanno ad abolirlo, trovano una scappatoia, diciamo, trovano un'altra maniera giurisprudenziale per non dover fornire gli avvocati ai testimoni. Però appunto questo. E l'altra cosa che mi ha fatto venire in mente invece l'intervento di Bufo è la maniera in cui si interseca l'attività dell'antimafia con il dispositivo coloniale. Noi a un certo punto troviamo nei verbali interni della DNA di quegli anni una dichiarazione di Cafiero De Rao, che era in quel momento procuratore di Reggio Calabria, sarebbe diventato, anche grazie al suo impegno particolare insomma nel perseguire scafisti, sarebbe diventato poi procuratore nazionale antimafia e in questo momento parlamentare o senatore del Movimento 5 Stelle. Qua è interessante analizzare diciamo la conduttura che porta dall'antimafia a scatti di carriera. Franco Roberti è in questo momento parlamentare europeo del PD, il suo predecessore Grasso era diventato presidente del Senato, Cafiero De Rao, il successore di Franco Roberti, è in questo momento parlamentare con il Movimento 5 Stelle. E Franco Roberti, oltre a essere uno dei più veementi sostenitori del legame tra immigrazione e terrorismo, in queste riunioni noi vediamo i servizi, insomma, e la polizia che dicono con certa onestà intellettuale: noi veramente quest'idea che i terroristi arrivino sui barconi non ci convince, ci sembra un po', ci sono mille modi, non la vediamo nella realtà, ci sono mille maniere migliori per un terrorista per arrivare in Europa. Noi quello che vediamo è una radicalizzazione in Europa a seguito delle detenzioni nei CIE, della vita nei ghetti, dello sfruttamento lavorativo. Quindi, diciamo, ripeto, con certa onestà, alcuni rappresentanti della polizia dicono: guardate che il problema della radicalizzazione non sono i barconi, il problema della radicalizzazione è quello che poi succede nei CIE, nei ghetti, eccetera, eccetera. E invece Capiero dice: no, no, ma per, cioè, voi potete forse ritenerlo improbabile, però noi questa è una pista invece che dobbiamo spingere, quella dell'immigrazione e terrorismo. Perché? Perché gli viene richiesto dai suoi committenti politici. Ci sono certe cinghie di trasmissione tra il potere giudiziario e il potere politico. In quegli anni è in particolare la commissione Schengen, che è una commissione bilaterale che si occupa di immigrazione nel Parlamento, e la commissione difesa del Senato, dove vengono auditi tutti questi procuratori e viene fatto capire loro in pratica quello che vogliono i politici che venga trovato. Quindi c'era l'allora presidente del comitato Schengen, la Ravetto, che a ogni persona, che insomma ogni procuratore poliziotto che le audiva, diceva: ma il legame tra la mafia nostrana e la mafia dei trafficanti e il legame col terrorismo, ma siete sicuri che non c'è? E alla fine, se tu insisti, insomma, le persone sveglie sanno come accontentare le persone che devono accontentare. Quindi Capiero è uno di questi, e una delle cose di cui parla a un certo punto in queste carte interne dice: noi per la Libia dobbiamo trovare una soluzione extragiudiziaria per quello che succede a... Questa parola extragiudiziaria, diciamo, mi attira la nostra attenzione, quindi noi prima di pubblicare l'inchiesta che poi abbiamo pubblicato sulla base di queste carte, facciamo la nostra email per dargli il diritto di replica, gli diciamo: guarda, sono venute fuori queste carte, tu, cioè, ci spieghi un po' di cosa stai parlando. Lui, la sua prima risposta è: queste carte non esistono, non so di che cosa state parlando, sono calunnie gravemente offensive, eccetera, eccetera. Quando nella seconda email mettiamo proprio le citazioni di quello che lui aveva detto, lui ci manda invece una lunghissima email dicendo: ah, ok, ora ho capito, va bene, e dalla spiegazione di quello che lui voleva dire con soluzione extragiudiziaria. E lui ci spiega che in quel momento l'antimafia stava sforzandosi di dimostrare in via giudiziaria gli abusi nei confronti dei migranti come una violazione di diritti umani, quindi diciamo di certificare la violazione dei diritti umani nei confronti dei migranti in Libia, per poter giustificare una missione militare ONU. In quel momento, diciamo, l'Italia si sentiva un po' messa in disparte dal fatto che il Regno Unito e la Francia avessero fatto l'invasione, cioè la no-fly zone sulla Libia, insomma, avessero rimosso Gheddafi e si stessero un po' mangiando gli interessi italiani in Libia, e quindi c'era una frenesia italiana nel rimettere piede in Libia. È una cosa che a un certo punto prova a fare Alfano con una giocata che gli riesce male, e la DNA partecipa a questa strategia in questo modo, cioè dicendo: se noi riusciamo a dimostrare gli abusi, i crimini contro l'umanità che soffrono i migranti in Libia, riusciamo a mandare una missione militare in Libia. Quindi no, la strumentalizzazione, no, del discorso umanitario sulla protezione dei diritti umani per invece mettere in atto una politica di tipo coloniale. In virtù di questi servigi che l'antimafia rende allo Stato italiano, viene aggiunta l'altra A a DNA. Franco Roberti, che ho avuto il piacere di intervistare, ha proprio detto che in virtù dell'attività investigativa messa in campo in seguito alla strage di Lampedusa, il governo ha ritenuto di voler attribuire anche le competenze sull'antiterrorismo all'antimafia, no? Quindi sempre con questa costruzione discorsiva dell'immigrazione come un fenomeno di sicurezza potenzialmente terrorista. Ora, io mi potrei dilungare moltissimo in realtà ancora su questa questione degli scafisti, però ci tengo a concludere su un'altra cosa, perché l'affinamento di tutti questi strumenti, diciamo, di manipolazione della realtà, di sorveglianza, culmina nella mia analisi. Ah, no, c'è una piccola parentesi che faccio. La DNA è anche la responsabile della campagna giudiziaria contro le ONG di salvataggio in mare. Noi vediamo da questi verbali, e la ragione è il fatto che le ONG intralciassero la campagna di arresti contro gli scafisti. Quindi, diciamo, a prescindere dalle ragioni politiche che hanno motivato la campagna contro le ONG, la ragione giudiziaria era quella che, una volta salvati dalle ONG, i migranti diventavano più difficili, diciamo, da far parlare e da usare nelle indagini contro gli scafisti. Magari a qualcuno sulla nave di salvataggio di un'ONG veniva la stramba idea di dire due parole sui diritti che ha una persona quando sbarca in Italia, e quindi proprio la polizia e la magistratura impazzisce, perché dice: ma le persone che ci sbarcano non le riusciamo più a manipolare come facevamo prima. E dicono una frase proprio gli esponenti delle forze dell'ordine in queste riunioni, che a me ha sempre messo i brividi, perché dicono: per noi, per queste indagini contro gli scafisti, era fondamentale il momento di empatia che si crea subito dopo il salvataggio in mare, perché in quel momento le persone ci sono grate e noi le facciamo parlare. Se noi non riusciamo ad iniziare le indagini in alto mare, noi non riusciamo più ad arrestare le persone. E cioè, ovviamente, siccome viviamo formalmente in uno stato di diritto, indagini giudiziarie in alto mare, dell'autorità giudiziaria italiana in alto mare, quindi in acque internazionali, è una cosa non necessariamente scontata che si possa fare. E che Mare Nostrum è passato alla storia come, no, l'Italia buona, quando l'Italia faceva i soccorsi in mare. In realtà, quando anche i responsabili di Mare Nostrum si sono dovuti difendere dalle accuse di pull factor, no, di fattore di attrazione, hanno sempre detto: guardate, noi eravamo soprattutto un'operazione antiscafisti. Noi abbiamo arrestato 700 persone in un anno di operazioni. Non eravamo un'operazione umanitaria. E infatti, quando viene abolita Mare Nostrum, la Direzione Nazionale Antimafia va in crisi e dice: ma come? Noi eravamo riusciti a far arrivare le nostre forze dell'ordine a 12 miglia dalla Libia e voi mo ce le portate indietro. Cioè, mo ci costringete a fare queste indagini sugli scafisti a terra, quando è uno scenario completamente diverso, quando noi avevamo iniziato a fare le indagini sulle navi. E questa cosa, questo tipo di indagini, che iniziano appunto a partire da Lampedusa, ottobre 2013, come accennava la compagna, era un costrutto che avevano iniziato ad elaborare precedentemente. C'è un rapporto questo ufficiale, un rapporto al Parlamento della Direzione Nazionale Antimafia, dove con tipico linguaggio da Istituto Luce, che contraddistingue diciamo, le istituzioni italiane, la DNA si vantava di aver inaugurato un percorso giudiziario nuovo inesplorato, di un sistema sinergico nazionale e internazionale di nuovo conio, che conclama l'alta professionalità della DDA di Catania e del suo capo, con la C maiuscola. Questo sistema di nuovo conio, esattamente, a cui si riferisce, poi lo spiega più in dettaglio dopo, esattamente la costruzione giuridica, diciamo giurisprudenziale, che consente di spostare, diciamo di estendere la sovranità delle guardie italiane alle acque internazionali. E questo è il colpo di genio di Giovanni Salvi, che all'epoca era il procuratore di Catania, anche lui poi diventato procuratore generale presso la Corte di Cassazione, direi, sì. Il punto più alto nella carriera di un PM in Italia, Salvi l'ha raggiunto subito dopo aver inaugurato questo percorso di nuovo conio, no? Che conclama la sua spiccata professionalità. Quindi lui queste carte che aveva nel cassetto, appunto, per consentire di iniziare indagini in alto mare, eccetera, eccetera, le tira fuori opportunisticamente dopo la strage di Lampedusa, quando poi il sistema diventa, grazie a Mare Nostrum, grazie poi all'Operazione Sofia. L'Operazione Sofia è l'operazione militare dell'Unione Europea nel Mediterraneo a guida italiana, che ha un fortissimo una missione antitraffico, quindi diciamo una missione che si è trovata a fare un numero elevato di salvataggi in ottemperanza alla legge del mare, ma che aveva un mandato soprattutto sull'antitraffico, non sui salvataggi. E tutto il mandato antitraffico dell'operazione militare dell'Unione Europea Sofia aveva la regia della Direzione Nazionale Antimafia, che prepara proprio dei manuali operativi per le guardie dell'operazione Sofia su come identificare gli scafisti. Questi manuali mi soffermerei di più perché sui dettagli, perché sono esilaranti, sarebbero esilaranti se non fossero tragici, perché vengono dati tutta una serie di indicatori alle forze dell'ordine su come riconoscere gli scafisti, che sono semplicemente tutto il contrario di tutto. Quindi viene detto: il trafficante lo puoi riconoscere perché è vestito meglio degli altri, magari c'ha vestiti cari, perché, o lo puoi riconoscere perché è quello peggio vestito di tutti, perché non vuole attirare su di sé l'attenzione. Lo puoi riconoscere dalle dinamiche di gruppo perché è chiaramente il leader. O lo puoi riconoscere perché è quello più in disparte di tutti, che non si caga nessuno, perché si sta cercando di nascondere. Quindi, diciamo, viene elencata questa serie di indicatori che sono, ripeto, una cosa e il suo contrario, una cosa e il suo contrario, che consentono poi alle guardie di fare, vi faccio solo un esempio, ci sono 8 persone che stanno scontando una condanna a 30 anni di prigione, sono entrati in galera quando avevano 19 anni, 20 anni, appena arrivati in Italia, come equipaggio di un barcone nella cui stiva sono stati trovati 49 morti. Queste persone vengono identificate come sospetti prima dagli agenti di Frontex, poi dagli agenti della squadra mobile di Catania, perché proprio scrivono nel loro verbale, avevano un atteggiamento sospetto. Nel corso di mentre parlavano tra di loro, uno di loro ha iniziato a ridere in maniera beffarda, cioè questo dicono, era la maniera con cui ci guardavano che ci ha insospettito. Quindi, diciamo, vengono messi proprio in pratica queste indicazioni in questo modo. Cioè, la polizia sarà a bordo, vede un gruppetto di persone che attira la loro attenzione per una ragione e per l'altra, e poi vengono manipolate le testimonianze in maniera tale da farle convergere sul gruppo preselezionato di scafisti. Avevo detto che avrei parlato di mafia nigeriana, ma mi sono mangiato un sacco di tempo, però voglio comunque fare un accenno conclusivo. Perché, ripeto, tutto questo, appunto, questo apparato messo in piedi a partire dal 2013 culmina, a mio avviso, nel 2019, quando, anche qui stiamo parlando di cose iniziate un po' prima, diciamo, il primo a immaginare di poter parlare di mafia rispetto alla criminalità nigeriana è stato il procuratore all'epoca Caselli di Torino, che chi di voi, insomma, ha partecipato al movimento Notav o chi di voi bazzica quelle parti conoscerà come, insomma, un grande architetto della repressione contemporanea dello Stato italiano, non a caso di aria PD, perché, insomma, Caselli, Roberti, cioè proprio i più feroci tra gli sbirri, non so perché, ma tendono a venire da quell'area politica, anche perché non c'è nei loro confronti, diciamo, quell'attenzione pubblica, non ci si aspetta da loro che agiscano come agiscono, quindi passano inosservate le cose che fanno. Prima commentavo con loro che pochi giorni fa l'ANSA ha diffuso una notizia relativa al processo agli scafisti del naufragio di Cutro, in cui uno dei testimoni sentiti a processo dice: la polizia mi ha detto chi io dovevo accusare. È stata la polizia a indicarmi chi erano i sospetti, io li ho indicati. Questa cosa sta per la prima volta venendo fuori sui giornali, grazie al fatto che c'è, diciamo, una specie di attenzione polemica nei confronti del governo su quello che è successo a Cutro, ma questa è la norma, l'assoluta norma dei processi per gli scafisti che vengono fatti dal 2013. La polizia dice: guarda, quelli che abbiamo individuato come equipaggio sono questi quattro. Tu mi devi solo mettere la firma su queste quattro foto, poi c'è il permesso di soggiorno. E a te, tu stai tranquillo, a te non ti vede. Poi ci sono tante di quelle cose che vengono fatte in assoluta malafede, perché poi nel corso del processo queste persone non vengono più fuori, no? Quindi rimangono solo i verbali di polizia sulla base della quale vengono fatti i processi. La polizia fa quello che si chiama in gergo tecnico un verbale di vane ricerche, cioè dice: no, noi abbiamo provato a cercarli, questi testimoni purtroppo non li troviamo più, quindi l'unico materiale probatorio che avete voi per fare il processo sono i nostri verbali. Poi quando tu, io giornalista, te le vai a cercare queste persone, scopri che molto spesso non si sono manco mai mosse da Catania, cioè stanno, parli con, cioè la prima persona con cui parli, magari della Croce Rossa o magari dei centri di accoglienza, tra tantissime virgolette, ti dice: ah sì, sì, questa persona lavora. Quindi, diciamo, fanno finta di perdere i testimoni in maniera tale. Ok, e vengo finalmente al punto conclusivo. Tutto questo sistema di falsificazione di prove, di manipolazione di testimoni, di mobilitazione dell'apparato simbolico dell'antimafia per riciclarlo sulla gestione repressiva dell'immigrazione ha il suo culmine con la campagna che esplode a partire dal 2019 contro la mafia, che non ritengo non sia mafia, nigeriana. Nel 2019 c'è l'omicidio di Pamela Mastropietro, non so chi di voi lo ricorda, una ragazza diciottenne con problemi di droga, uccisa, stuprata e tagliata a pezzi, insomma, in una maniera veramente orribile, brutale, dal suo spacciatore, parrebbe, di Macerata, sì. Quella in seguito a questo omicidio poi c'è la strage, no, la tentata strage fascista di Luca Traini, che si avvolge nella bandiera italiana tricolore e va a fare una sparatoria contro i primi neri che vede in giro per Macerata. L'inchiesta sulla morte di Pamela Mastropietro inizia subito con un depistaggio che, devo dire, che la procura ha avuto il merito di non accogliere, dicendo: guardate qua, la mafia nigeriana non c'entra. Però immediatamente spunta, questa cosa non è molto ricordata, ma spunta un pentito di 'Ndrangheta che dice: sì sì, io so dai carcerati nigeriani che quella era la mafia nigeriana, un rituale della mafia nigeriana con questa tagliata a pezzi. Questa figura, no, del pentito che spunta giusto per confermare le peggiori tesi è un altro classico che noi ritroviamo sempre in questo genere di casi. Non prospera l'indagine per mafia rispetto all'omicidio di Pamela Mastropietro, ma a quel punto iniziano invece una serie di indagini, ai sensi del 416 bis del codice penale, nei confronti della comunità nigeriana. Io a un certo punto inizio a occuparmi di queste indagini perché, seguendo appunto questo filone, quindi avendo a che fare con gli avvocati, in realtà le avvocate, perché le persone competenti su queste materie sono pochissime in Sicilia ed è un gruppetto di avvocate che fondamentalmente hanno capito che cosa sta succedendo e hanno preso a cuore la questione, diciamo, quindi sono sempre loro, mi iniziano a dire queste persone: guarda che io inizio ad avere anche clienti nigeriani accusati di mafia, quindi con richieste di pene di 15-20 anni, che sono, cioè, non sono proprio perfettamente innocenti, ma niente delle accuse che viene fatta loro sta in piedi, te ne vuoi occupare? E io a quel punto inizio a studiare queste carte dei processi per mafia nigeriana. E vengono fuori delle cose raccapriccianti. In primo luogo c'è la questione da cui io iniziavo, cioè la questione delle intercettazioni. L'uso di intercettazioni è assolutamente a tappeto, di questo la polizia proprio si vanta, ti dicono, nel caso di un'inchiesta di Torino che ho seguito, dice: noi abbiamo fatto 500.000 chiamate intercettate per questa indagine, 500.000 chiamate intercettate. Io a un certo punto ho provato a fare il calcolo, cioè anche ipotizzando una manciata di secondi per conversazione, stiamo parlando di mesi e mesi filati di audio ininterrotto che in teoria in vari dialetti, in varie lingue, in varie appunto lingue regionali della Nigeria, che qualcuno dovrebbe essersi ascoltato. Ora, malgrado queste intercettazioni a tappeto, indagini a tappeto nei confronti della comunità nigeriana, dalle intercettazioni non viene fuori niente, viene trovato qualche piccolo spacciatore, viene identificato qualche caso di sfruttamento della prostituzione, però non emerge nessuna struttura appunto con un programma criminoso unitario, con un potere di intimidazione sul territorio, insomma nessuna organizzazione che rispetti i requisiti stabiliti dall'articolo 416 bis del codice penale. E quindi a un certo punto tutte queste prove vengono tirate fuori dai pentiti. Questi processi vanno quasi tutti in rito abbreviato. Il rito abbreviato significa che tu rinunci a mettere in discussione il fascicolo probatorio del PM. Cioè tu accetti che le prove raccolte dal PM sono quelle sulla base delle quali tu verrai giudicato e accetti, diciamo, di dibattere sulla base di quello, però non più di metterlo in discussione, quindi non portare il testimone in tribunale e risentirlo. E quindi proprio richiedere: ma tu in questa intercettazione che stavi dicendo? Stavi dicendo questa cosa, stavi dicendo quell'altra? Quindi non c'è contraddittorio. Quindi questi processi in rito abbreviato arrivano quasi sempre a condanna. Quando qualcuno ha il coraggio di scegliere, quindi arrischiandosi una pena molto più alta, il rito ordinario, e quindi i testimoni e i collaboratori vengono portati in tribunale, vengono sottoposti a contraddittorio, vengono fuori robe allucinanti. Vi leggo solo un'intercettazione che è stata fatta in carcere al primo pentito di mafia nigeriana, una persona che si chiama Jombul, che è quella che dà la stura a tutto il resto dei processi che seguirà in Italia sulla mafia nigeriana, perché fondamentalmente conferma tutte le tesi accusatorie, tutte le tesi della procura, per filo e per segno. Questa persona viene intercettata in carcere mentre aveva un colloquio con sua moglie e dice: guarda, mi è venuto a trovare il pubblico ministero. Ministero, però insomma, fa capire, dice: mi è venuto a trovare il PM e mi hanno detto: guarda, loro cambiano la tua vita. Beh, volevo leggere testualmente perché è bella, però l'ho persa. Dice: mi hanno detto che loro ci cambiano la vita, ci sistemano la famiglia, ci trovano una casa, ti danno uno stipendio, dobbiamo solo dirgli tutto quello che vogliono sentire. Emerge anche una lettera che lui ha scritto al capo della squadra mobile, diciamo, che si occupava di questa indagine, in cui si chiama Gaetano Morelli, e gli dice: caro Gaetano Morelli, io ti aiuto con tutte cose se tu effettivamente mi sistemi la famiglia. Lui parla anche delle intercettazioni dei maltrattamenti che subisce in carcere. Dice: io qua non ci posso più stare, perché qua appena apri la bocca per lamentarti di qualcosa ti tengono fuori dal carcere e ti picchiano a sangue. Questo è un inferno, questa è una tortura. Un dato interessante è che quando queste dichiarazioni vengono fuori a processo, cioè quando queste intercettazioni vengono fuori, non sono un elemento, diciamo, che rafforza le dichiarazioni dell'imputato, sono sempre usate come dichiarazioni per metterne in dubbio la credibilità. Cioè tanto pubblici ministeri come avvocati, quando leggono di un testimone che dice: a me mi ha piccato la polizia, la reazione è: ma vi rendete conto, questa persona che accusa le nostre forze dell'ordine di tali assurdità, che credibilità può avere? Quindi, diciamo, anche gli stessi avvocati difensori che avrebbero potuto fare un ragionamento contrario, cioè dire: questo lo stavano massacrando di botte in galera e quindi ha detto tutto quello che le persone volevano sentirsi dire pur di uscire da questa situazione, anche gli stessi avvocati difensori, sapendo che evidentemente è più efficace rispetto a un tribunale italiano, decidono di usare la logica contraria, cioè questa persona si inventa maltrattamenti della polizia, figurati che cos'altro non si è inventato. Emerge nello stesso processo, in un filone dello stesso processo, una dichiarazione di un altro collaboratore di giustizia a cui in un certo momento viene chiesto dal difensore: tu ci hai indicato chi è il capo dell'associazione mafiosa, ma tu come lo sapevi? E lui indica il poliziotto in tribunale e dice: tu me l'hai detto. A quel punto lui salta un piede, come tu me l'hai detto? Sì, tu, il poliziotto, è venuto e mi ha detto, guarda, questo è il capo, è il nuovo capo della mafia nigeriana, e quindi io ve l'ho ripetuto perché me l'ha detto lui. Queste cose avvengono in maniera assolutamente sistematica, a volte vengono appunto anche rilevate dalle sentenze, e vediamo appunto all'opera la perversione del meccanismo, no, del collaboratore di giustizia, come viene pervertito in questi casi. L'ultimo aneddoto che voglio raccontare è quello, provo a riassumerlo brevemente, della cosiddetta Bibbia Verde. La Bibbia Verde è l'unica prova fisica, al di là di intercettazioni inconcludenti e di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, l'unica prova fisica dell'esistenza della mafia nigeriana, perché a un certo punto la Procura di Torino riesce a intercettare un pacco dove c'è dentro questo documento di cui un collaboratore aveva parlato, che si chiama La Bibbia Verde, e che è un vero e proprio, ne parleranno i giornali in questi termini, manuale del mafioso nigeriano. È un libretto in cui c'è scritto: noi siamo l'associazione chiamata XY, abbiamo un nome di copertura che è YZ, ci dedichiamo ai furti, ai rapimenti, ai sequestri, agli stupri, al traffico, cioè una lista incredibile di reati che ammettono, con espressioni tipo: per noi l'omicidio è una cosa che facciamo col sorriso sulle labbra. Ora, se qualcuno di voi è appassionato di film di mafia, forse questa frase gli inizia a suonare in testa. L'altra frase che viene riportata dai giornali, Porro ci fa proprio, Nicola Porro, forse qualcuno di voi ha lo spiacere di sapere chi è, ci fa uno speciale del suo programma su Rete 4, mettendo in evidenza un'altra frase che diceva: è solo business. Io inizio a vedere appunto questo documento e c'è una parte di me che pensa: ah cazzo, ma forse, cioè, per quanto diciamo sia un po' inverosimile, però se è un documento fisico in cui questi, magari c'è qualcosa di vero. E poi una parte di me invece scettica e dice: devo andare a capire che cos'è questa Bibbia Verde. Quando finalmente riesco a mettere mani sul documento integrale della Bibbia Verde, non solo i pezzettini che erano stati passati alla stampa amica, io mi accorgo che l'intero documento è un copia e incolla da internet. Queste citazioni di "noi uccidiamo col sorriso" sono una citazione di Goodfellas, il film "Quei bravi ragazzi", che è il titolo italiano, citazioni dal Padrino. È proprio possibile identificare anche da dove sono state prese, nel senso che non è che se uno si è messo a prendere le citazioni dal Padrino che gli piaceva, le citazioni di Goodfellas, no, se tu le metti in quell'ordine su Google trovi un post di un blog che si chiama Best Mafia Quotes, e dove ci sono tutte le citazioni una dietro l'altra, proprio copiate e incollate. Il corpo proprio centrale invece di questo manuale sono due costituzioni di due gang carcerarie degli Stati Uniti, in contraddizione l'una con l'altra, messe semplicemente copiate e incollate una di seguito all'altra, senza nessun tipo di modifica, al punto che si trova all'interno, diciamo, della Bibbia Verde, in mezzo alla pagina si trovano dei numeri di cui non si capisce la funzione, e che poi mi sono accorto che erano semplicemente i numeri di pagina del PDF da cui era stata copiata e incollata, che nel momento in cui è stata cambiata la formattazione, diciamo, finiscono in mezzo alla pagina. Quindi questo documento completamente falso, che ha passato abbondantemente i 3 gradi di giudizio, lo cita la Cassazione come prova irrefutabile in almeno una sentenza, proprio un falso evidente, che io a quel punto voglio capire: ok, ma da dove è venuto fuori? E io concludo con la storia di come la Bibbia Verde è stata ritrovata. Tutto il processo imbastito a Torino, che poi verrà chiamato appunto processo Bibbia Verde, Green Bible, eccetera, eccetera, c'è sempre Torino, parte dalle dichiarazioni di, anche lì, un collaboratore di giustizia. Questo collaboratore di giustizia inizia a parlare a un certo punto di questo Green Bible. In realtà il gruppo, l'associazione, che era un'associazione legittima di cui faceva parte, che la procura voleva dipingere come un'associazione mafiosa, aveva effettivamente una costituzione che si chiamava Great Book, GB. Quindi lui dice: no, questo GB vuol dire Green Bible, e conferma tutto quello che io vi dico. Però questa Green Bible non c'è fisicamente. Finché, con un permesso premio, il collaboratore di giustizia viene messo fuori dal carcere. Quella stessa settimana in cui questa persona esce dal carcere, questa persona chiede un colloquio con la procura e dice: sapete la Green Bible di cui tanto vi ho parlato? È proprio in questo momento in viaggio dalla Nigeria all'Italia per essere ricevuta dal nuovo boss della mafia nigeriana in Italia. Questo è un testo sacro che solo il boss può possedere, ed è proprio in questo momento sta viaggiando, diciamo, attraverso il servizio di spedizione postale. Dice: ah, e come la possiamo recuperare? ho il codice di tracciamento di DHL, il codice dello spedizioniere. Ah, e dove l'hai trovato? Su un gruppo Facebook. Dice, e su che gruppo Facebook? Dice, no, in pratica ho aperto il mio computer e stava ancora il login di Facebook di un ex mio consocio mafioso che aveva fatto il login. Quindi io sono entrato su un gruppo segreto di Facebook, ho trovato questo codice di spedizione, proprio appena, proprio guardate che coincidenza, la settimana in cui a me mi tirate fuori, e sono venuto subito da voi a dirvi, lo potete intercettare. A quel punto, con il codice di tracciamento, la scientifica di Roma va nel magazzino della DHL, preleva questo pacchetto, lo apre, fa le foto di questo documento, e poi loro, la storia che raccontano, perché io tutti questi poliziotti e questi pubblici ministeri li ho intervistati, ti dicono, noi poi l'abbiamo richiuso e l'abbiamo fatto arrivare al mittente in maniera tale che il boss non sospettasse che noi l'avevamo intercettato. Noi poi ovviamente, quando l'abbiamo arrestato, l'abbiamo trovato in possesso del libro, tutte cazzate. Il ricevente della Green Bible è una parrucchiera di Roma, è un negozio di parrucche, treccine, che c'è qua alla periferia di Roma, gestito da una signora che conosceva perfettamente il collaboratore di giustizia e anche il mittente del pacco, e che quando noi andiamo a trovare ci dice, ma come la polizia non è mai venuta a trovare? Ah, io questi due li conosco, venivano nel mio negozio di parrucchiera. Poi a un certo punto ci inizia a rispondere male, io credo che lei sia in qualche modo coinvolta in questo processo, insomma, di creazione della Green Bible, non lo so, sta di fatto che lei non viene mai inserita nel processo, e quando durante il processo il giudice chiede alla polizia, dice, scusateci, ma state dicendo che questa Green Bible arriva ed è solo in possesso del boss della mafia nigeriana, quindi voi il destinatario del pacco siete andati a trovarlo? Dice, no, perché abbiamo fatto un controllo sui nostri database, non ci risultava il nome, risultava una persona inesistente. Anche là, una persona che sono stato in grado di rintracciare in, non lo so, 15-17 secondi di ricerca su Facebook, salta fuori immediatamente il suo profilo, l'indirizzo del suo negozio di parruccheria. Quindi non solo è ovvio che il libro sia stato materialmente prodotto dal collaboratore di giustizia, ma è anche inevitabile trarre la conclusione che qualche livello di conoscenza, diciamo, di come questa Green Bible sarebbe stata fatta comparire, era condiviso anche con almeno qualcuno delle forze di polizia che gestiva l'indagine. E questo per me è un po', diciamo, la possibilità, appunto, e tutte queste persone sono state condannate, insomma, sono state condannate sulla base delle dichiarazioni del collaboratore e di questo documento che viene fatto ritrovare. E questo per me è un po', diciamo, il culmine dell'assurdo, diciamo, della capacità di creare ex nihilo una realtà inesistente, di manipolazione delle prove, di creazione dal nulla di prove che poi vengono prese per buone nell'intero sistema giudiziario italiano grazie agli ignavia degli avvocati, i pregiudizi, appunto, di pubblici ministeri, polizia e giudici. Ed è l'aneddoto su cui io voglio concludere. Vabbè, brevemente vorremmo cogliere l'occasione per ricordare che questo è il primo di due incontri di approfondimento sul ruolo e le strategie repressive della DNAA. Il prossimo si terrà il 20 giugno sempre qui all'università e approfondirà il contenuto della seconda A dell'acronimo, ovvero l'antiterrorismo. La discussione di oggi è stata utile a far capire quanto siano le politiche dello Stato a creare o quantomeno consolidare fenomeni sociali come quello mafioso o quello migratorio, che vengono poi propagandati come emergenziali per giustificare, proprio in nome dell'emergenza, l'introduzione di leggi e strumenti repressivi eccezionali che poi diventano la regola e vengono man mano estesi ad altri contesti. Come è stato ampiamente detto, nel 2015 alla Direzione Nazionale Antimafia viene affidato anche l'ulteriore compito di contrastare il terrorismo, anche internazionale, ed ecco che lo Stato ha un nuovo pretesto per occultare le responsabilità dei governi, colpire le persone scomode, criminalizzare il conflitto sociale. Abbiamo di recente sentito le parole del ministro Piantedosi in persona, che ha sostenuto che la mobilitazione per la Palestina possa sfociare in forme di terrorismo. Lo Stato italiano, pochi mesi fa, con l'accusa di terrorismo, ha arrestato un militante palestinese, Anan Yaesh, tuttora in carcere per compiacere l'alleato sionista. Accuse di terrorismo condiscono anche operazioni repressive scattate a seguito della mobilitazione contro il regime di 41 bis e l'ergastolo stativo, per non parlare di quanto il pericolo del terrorismo islamico sia usato per perseguitare sempre più persone immigrate arabe. Insomma, il 20 giugno sarà un'occasione per discutere insieme di quanto possano riguardarci da vicino la retorica del terrorismo e l'apparato repressivo messo in campo dall'antiterrorismo.